Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. E buonasera, bentornati a Ethno Chic. Questa sera sono le 21:35, un attimo di ritardo, abbiamo dovuto preparare due cose perché ecco, siamo arrivati un po' lunghi, come si dice qua a Bologna, e niente, un po' come insomma il nostro podcast che potete trovare quasi tutte le puntate ormai anche che abbiamo trasmesso in questa seconda stagione della nostra di questa trasmissione su Radio Città del Capo, che potete seguire tutti i mercoledì sera in diretta su 94.7 o 96.250 oppure anche in streaming, però appunto c'è anche la possibilità adesso di anche l'anno scorso di ascoltare tutte le puntate o quasi tutte le puntate che sono state trasmesse a partire appunto dal novembre del ormai lontano 2017. E potete trovarlo su questa piattaforma che si chiama Archive, scritto archive.org. C'è una pagina dedicata che si chiama appunto Ethno Chic, e poi c'è quella Ethno Chic 2 che sta per seconda stagione, e dove piano piano stiamo aggiornando tutte le puntate. Stasera ritorniamo a parlare per la terza serata, il trittico di serate dedicate alla musica della Transilvania. D'altra parte ci sembrava importante dedicare questo spazio a una tradizione che nel corso di più di 100 anni di ricerche e di cambiamenti è comunque rimasta una tradizione viva, e soprattutto viva la tradizione della musica per archi, insomma violino. E questi ensemble d'archi che ancora oggi insomma sono ancora vitali. Oggi ci dedicheremo soprattutto a quella generazione che adesso di musicisti che adesso sono piuttosto anziani, e partiamo proprio da queste registrazioni che, come accennavo l'altra volta, riprendono un po' nel nome i dischi Patria, Ui Patria, cioè i nuovi dischi Patria, le registrazioni che vennero fatte e commercializzate negli anni 30 dall'Accademia delle Scienze di Budapest, con supervisori Bartok, Béla Bartok, Zoltán Kodály e László Lajta, e i loro collaboratori. È stata la prima edizione in commercio su 78 giri di questi esempi di musiche tradizionali un po' da tutta l'Ungheria, e raccolta poi che è stata ripubblicata in vari CD-ROM diversi anni fa, mi pare più di 20 anni fa, e non so se poi è stata ripubblicata. E qui invece si tratta di un lavoro fatto non con su registrazioni di archivio, ma su musicisti viventi. Per esempio il primo che vi facciamo ascoltare, che viene da appunto, siamo sempre nella Transilvania in questo caso, che è chiaramente la regione che ha conservato di più queste tradizioni musicali, soprattutto quelle strumentali, ma non solo. E questo violinista, nato nel 1937, quindi ai tempi di questa registrazione negli anni 90, aveva 60 anni, è tuttora vivente e è ancora in attività. E si chiama Aladar Csizár, è del villaggio di Magyarpéterláka. E qui lo sentiamo in una suite di brani, appunto, che sono, come abbiamo parlato l'altra volta, diffusamente sono comuni sia alle popolazioni di lingua rumena, di lingua magiara. Spesso i musicisti sono zigani che suonano appunto, e in questo caso sono appunto una shardar romena, battuta, ponturi e battuta, quindi una suite di brani da ballo che vi proponiamo immediatamente. Thank you. E abbiamo proprio visto, sentito, anzi scusate, nel senso che io avevo davanti al mio schermo YouTube, in realtà poi non, questo non c'è il video, c'era solo un'immagine di copertina di questo CD che fa parte appunto di questa raccolta di registrazioni fatte nella seconda metà degli anni 90 e pubblicate da questa piccola etichetta discografica, la Fonò di Budapest, che in realtà poi è anche un centro culturale, queste case di danza che hanno cominciato a fiorire a partire dagli anni 70 e sono dei ritrovi per chi vuole ballare, imparare le danze popolari, sentire gruppi di musicisti che vengono apposta dalla Transilvania piuttosto che da altre zone, oppure sono allievi di questi musicisti, ricercatori che suonano anche, insomma, che ripropongono a un pubblico cittadino queste musiche. E queste case di danza sono abbastanza diffuse in tutta l'Ungheria, insomma, sono delle specie di folk club dove sostanzialmente c'è una parte di concerto e poi c'è una parte dove i musicisti invitati, più che fare un concerto, fanno qualcosa di diverso, cioè fanno una specie di accompagnamento alla danza, insomma, del pubblico, insomma, che viene a ballare. Quindi due cose molto diverse, e molto diverse anche da invece quello che appunto stiamo ascoltando, ovvero sia queste musiche nel loro contesto, insomma, un contesto in cui queste musiche vengono suonate in occasioni di festa, sì, per ballare oppure per accompagnare le nozze, e quindi ci sono tutta una serie di danze, come vedremo dopo, anche in questa sequenza di suite di danze c'è un ordine abbastanza insomma fisso, insomma, che varia però a seconda di paese in paese e di provincia in provincia. E un altro esempio che vi facciamo sentire sempre di questa serie di dischi, che appunto sono dischi che vengono che sono più di 50 CD che sono stati pubblicati e che vogliono un po' rappresentare quello che sarebbe l'ultima ora di raccolta di questi musicisti, perché effettivamente molti di questi musicisti sono anche piuttosto anziani, erano piuttosto anziani, però appunto alcuni di loro ancora viventi in attualità. In realtà appunto non è stato proprio l'ultima ora, in quanto poi ci sono le nuove generazioni e insomma tuttora ancora si trovano questi musicisti che suonano, e possiamo trovare molto materiale non solo su, insomma, di tipo pubblicazioni discografiche o di materiali d'archivio o materiale anche su YouTube girato anche in maniera molto amatoriale, ma proprio anche andando sul posto per i villaggi, insomma, possiamo abbastanza facilmente trovare musica suonata dal vivo. E dicevamo, un altro esempio sono questa banda che viene da un altro paese, sempre della Transilvania, che è sempre un gruppo che fa musica da villaggio e che si chiamano, allora, sì, non hanno un numero, sono dei musicisti zigani che suonano questa musica di villaggio di Magyar Palatka. Sono abbastanza conosciuti, sì, come musicisti di Magyar Palatka, e girano anche al di fuori del loro villaggio, anche a volte fuori dell'Ungheria. questi quindi erano i musicisti di Magyar Palatka, che poi mi sembra che siano stati anche protagonisti di un film che si chiama Il canto dei vivi, che è un documentario molto bello su questi musicisti che appunto partono dalla Transilvania e poi vanno a suonare a Parigi, questi musicisti zingari. Credo che siano proprio loro, però non ricordo molto bene questo fatto. Comunque, insomma, molto bello questo documentario. E infatti, in parte il revival del folk revival, per usare un termine, insomma, che conosciamo bene, insomma, degli anni 60-70, in parte la ricerca sul campo, in parte anche il fenomeno della, potremmo dire, della world music, ha inciso nel bene e nel male, per esempio i musicisti di Clejani, che sono diventati i Taraf de Aydoux, un gruppo quindi di fama internazionale. Tutto questo ha portato sicuramente a un rinvigorire di queste tradizioni musicali, che appunto rischiavano magari di cambiare la loro, e anche scomparire in qualche modo, magari sono piantate dalle tradizioni del bandistica, che pure sono presenti in queste zone, o piuttosto dall'uso di fiati, fisarmoniche, che pure troviamo, appunto, come anche abbiamo visto, insomma, assieme al violino, che comunque rimane uno strumento caratterizzante di questa musica, che continua ad avere una sua vita. E dicevamo prima di questa successione di musiche e di danze, che ha una struttura abbastanza determinata. Per esempio, questo lo vediamo in un disco di cui farò sentire diversi brani, che è di questo violinista. Questa è una registrazione sempre negli anni 90, ma non fa parte di quella serie di dischi che dicevamo, invece una serie di registrazioni fatte da István Pávai, che è un importante ricercatore etnomusicologo ungherese, il quale ha registrato nella regione della provincia di Nagyenyed, in Transilvania, questo musicista che aveva imparato appunto a suonare il violino dai musicisti zigani. Si chiamava, perché lui è mancato, era del 1920, quindi quando è stato registrato in questo disco aveva più di 70 anni, Ferenc Kulcsár. E qui lo sentiamo un po' in una parte del suo repertorio. Naturalmente vi farò sentire una piccola, insomma, qualche esempio da questo doppio CD edito appunto negli anni 90 dalla Casa delle Tradizioni di Budapest, in cui ci sono appunto questi brani e questa successione di musiche da danza, da matrimonio, che lui suonava sia per tutte le comunità, quindi con delle differenze, per cui per esempio la successione di danze ungheresi per le popolazioni ungheresi era un po' diversa da quella successione di musiche suonate per i rumeni nelle occasioni di feste, di matrimoni. Partiamo proprio con una delle sequenze gli ungheresi, che vediamo cominciava con una danza virtuosistica per gli uomini, che si chiama pontoso, seguendo la quale di solito c'era un pontoso più lento che era danzato su melodie anche che si potevano cantare. E poi c'è la Eurogesh, che sarebbe una danza di coppia, e il finale una danza di coppia che è più rapida, perché di solito nella musica ungherese di danza troviamo questa successione tra tempi lenti e tempi veloci, che poi è anche quella di molta musica d'arte, e quindi finisce con questa sapora. E il brano che vi facciamo sentire adesso è proprio una suite di questo tipo, Pontoso, Eregesh e Sapora. Thank you. Thank you. sentite come comunque c'è la caratteristica che le varie danze nella suite, cioè una di seguito all'altro, hanno comunque degli stacchi ben definiti, non c'è un elemento di raccordo, e poi c'è una chiusa, usare un termine tecnico, proprio una cadenza ben chiara e proprio alla fine, soprattutto alla fine del brano. Andiamo velocemente, perché il tempo è un po' tiranno, a sentire invece com'è la successione di danze in ambito rumeno, che tutto sommato è abbastanza simile. Si apre con un brano Aidau, che è sempre una danza di uomini, poi c'è una parte più camminata, Depurtat, poi c'è Invertita, che è una danza che è piuttosto diffusa e che va a accompagnare, a portare all'ultimo, al finale, anche qui la parte più veloce, che è questa danza che si chiama Sranzanita, che sostanzialmente è affine alla Sapora che abbiamo sentito come chiusa ungherese. Quindi c'è sempre un certo parallelismo, e non ci sono, sostanzialmente c'è una certa comunanza di materiale musicale, e anche sostanzialmente quello che cambia è sostanzialmente quando c'è la lingua dei testi. Quindi andiamo a sentire questo brano, questa suite di danze rumene. questo è Ferenc Kulcsár con la sua banda, questo musicista di questo villaggio della, tra i fiumi Maros e Kukulő in Transilvania, nella provincia Nagyenyed. Lui era di Magyarbécs, un paesino appunto in cui lui ha mosso la sua vita come musicista, suonando queste musiche per appunto per popolazioni in lingua rumena, ungherese, zigana e via così. E queste musiche che hanno molto in comune, purtroppo le dobbiamo lasciare tra poco, e comunque ci sarebbe molto a far ascoltare. In questi pochissimi minuti che mi rimangono, vi voglio far sentire solo appunto prima un esempio di melodia di nozze per le nozze rumene, le popolazioni in lingua rumena, e un accompagnamento della sposa invece sempre suonato invece per le popolazioni in lingua ungherese, sempre suonato da Ferenc Kulcsár. E vi do appuntamento alla prossima settimana con nuove musiche dall'Est Europa. Questo era De Strigat la Nunta, appunto per delle nozze rumene, e il prossimo brano invece è un Megnac Sogn Kisher, che sarebbe l'accompagnamento della sposa suonato per un matrimonio ungherese. Grazie e buonanotte.